La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti, questa è La Rosa Purpurea, una Rosa Purpurea che questa settimana si incentra su pochi film, ma di cui c'è molto, molto da dire, perché non sono tante le uscite di questo fine settimana, ma sono molto qualificate in qualche modo. Just Charlie, Figli e 1917 per entrare in atmosfera Oscar. Ne parleremo con Boris Sollazzo, ma parleremo anche di opere, perché c'è un grande regista cinematografico come Edoardo De Angelis, che cura proprio in questi giorni al Teatro San Carlo di Napoli la Tosca, e poi c'è Claudio Insegno che porta invece in scena a Milano al Teatro Nuovo Il Vizietto. E quindi parleremo di tutto questo, come sempre giocheremo insieme con il nostro film misterioso e vi segnaleremo tutto il cinema che c'è da vedere in casa. Cominciamo con la prima delle tre proposte cinematografiche di questo weekend. Andiamo in Inghilterra e incontriamo un ragazzino di grande talento calcistico, ma con un grande segreto. Il film è Just Charlie. Il City vuole Charlie. Charlie, è una grandissima occasione. Lo so. È una cosa straordinaria, ora devi diventare un uomo. Non sei felice, vero? Sto bene. Non come prima. Ci sono cose più importanti del calcio. Che cos'hai? Niente. Invece sì, sei strano. Non è vero. Allora perché mi ignori? Non fai altro che dire firmalo, firmalo, firmalo, non me ne frega niente del calcio, io non voglio più giocare e non firmerò quel Charlie! Contratto, capito? La crisi arriva così improvvisa. Charlie ha sempre giocato a pallone, ha sempre mostrato un talento straordinario. A 14 anni arrivano gli osservatori del Manchester City, lo vorrebbero per un provino, ma proprio in quel momento Charlie capisce che non è quello che desidera dalla vita, anzi forse è proprio quello che desidera il padre, che ha avuto una carriera stroncata da un infortunio e riversa, come spesso accade sul figlio, tutte le sue ambizioni mancate. Charlie invece vuole un'altra cosa ed è qualcosa che è profondamente intimo. Charlie si sente una ragazza. Charlie si traveste di nascosto, prendendo i vestiti della sorella e provando a guardare come sta davanti allo specchio con un paio di scarpe con il tacco. Charlie vorrebbe essere accettato per quella sua particolarità, ma la società fuori è durissima in questo senso e quando il passo sarà fatto avrà conseguenze importantissime e fondamentali, dilanianti, tanto dentro quanto fuori dalla famiglia. Salutiamo Boris Sollazzo che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Just Charlie di Rebecca Fortune con il bravissimo Harry Gilby nei panni di Charlie. Tra l'altro il film è di un paio di stagioni fa, arriva adesso in Italia. Nel frattempo questo attore lo abbiamo visto nei panni del giovane Tolkien nel film dello scorso anno. Devo dire, una occasione un po' mancata però a mio modo di vedere, perché il materiale c'era tutto, perché questa volta c'erano anche gli elementi per trattarlo in maniera diversa. Invece mi sembra che la regia di Rebecca Fortune scalcagni un pochino in certi momenti, tenda a drammatizzare molto e a mettere in fila tutta una serie di problematiche legate a questa presa di coscienza gender, diciamo così, da parte del giovane protagonista, salvo tradirle clamorosamente anche in maniera un po' troppo frettolosa nel finale. Ecco, mi sembra che ci fosse tante buone intenzioni alle spalle di Just Charlie, ma alla fine, tanto per rimanere nella parafrasi calcistica, il gol non si realizza mai. Occasione parecchio mancata e regia parecchio scalcagnata, mi piace molto come definizione, perché esattamente quello che percepisci di fronte a un film che poteva essere grande, anche grandissimo, perché aveva la fortuna di avere un attore davvero molto in parte, non era assolutamente facile perché insomma le tematiche gender sono state tanto trattate, ma non probabilmente con un'anagrafe così bassa e con problematiche così profonde. C'è questo ragazzo che è veramente notevolissimo. Il soggetto era interessantissimo anche per questa doppia vita, doppio modello di identità sessuale, se vogliamo, no? Quello pieno di tabù del calcio, questo ragazzo che comunque quel talento lo ha, una sorta di Agassi che si trova con un padre che riversa su di lui tutte le sue frustrazioni, i suoi desideri, e non capendo quali sono invece le frustrazioni e i desideri del figlio. E quindi il punto di partenza era parecchio in avanti, c'era tanto da poter raccogliere, tanto da poter raccontare, e in fondo una regista donna poteva essere un punto di vista interessante. Purtroppo la Fortune invece cerca una convenzionalità, un conformismo di racconto, un politicamente corretto e un pateticamente corretto che risultano quasi subito irritanti, non solo nel finale, che insomma ha nella ricerca dell'happy end un filo troppo di stridore rispetto a quello che si stava raccontando, ma anche perché cerca disperatamente il patetismo, il dolore, la drammatizzazione, come dicevi tu, senza mai dare però profondità a tutto questo, come se fosse quasi una soppopera. Vengono in mente quei lodevoli sceneggiati, mi viene da dire, vista la mia età, ma dirò magari minifilm o miniserie o film TV della Rai, che si sforza magari di raccontare un argomento a cui i suoi spettatori sono poco abituati e inevitabilmente cerca schemi narrativi che non sono nemmeno classici ma molto stereotipati. La Fortune non si stacca mai da quel modello, cerca di fare più che un film e più che raccontare una vita così lacerata e così lacerante, perché poi si deve confrontare anche con la società, cerca semplicemente di fare un manifesto che spesso sfocia nella banalità, se non addirittura negli stereotipi che vorrebbe combattere, e alla fine Just Charlie sì, è proprio un'occasione mancata, non riesci mai a sentire il dolore, la fatica, anche l'amore che questo ragazzo ha dentro e che non può esprimere come vorrebbe attraverso l'identità che lui sente di avere dentro. Quindi è veramente un peccato, viene da dire che forse Just Charlie è proprio il suo titolo giusto, inevitabile, con quel just però che ha tutta un'eccezione negativa. Mi ripete continuamente che farebbe di tutto per me, che mi vuole bene. Perché allora non posso essere quel che sono? E tu chi sei, Charlie? Just Charlie nei nostri cinema, adesso la viabilità, fra poco vediamo se le cose andranno meglio in termini strettamente cinematografici con Figli di Mattia Torre e Giuseppe Bonito. La rosa purpurea. I primi 3 mesi sono stati la quiete prima della tempesta. Oh! E se fossi stato un saggio capo indiano, tutto bene. Probabilmente avrei sentito la tempesta arrivare. Mi ami? Sei incinta? Sì. Abbiamo concepito Pietro in un periodo luminoso della nostra vita. Ma la notizia è strepitosa. Oh. Noi facciamo un altro figlio, eh? E sti cazzi! C'era proprio bisogno di fare un altro figlio. Pietro porterà equilibrio. Andrà tutto bene? Sì. I genitori sono soli e non c'è nessuno che li aiuta veramente. Aia! Quanto è vero, Dio, t'ammazzo, eh! E allora, avete sentito una clip del film Figli, protagonisti due grandi nomi del nostro cinema, come quelli di Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, insieme a loro Stefano Fresi, Valerio Aprea, Paolo Calabresi e una serie di grandi volti della commedia contemporanea, per raccontare quanto sia difficile fare il secondo figlio, un po' come fare il secondo film molto spesso per i registi. Nicola e Sara hanno scoperto appunto di essere incinti, di aspettare il secondo figlio, provano ad abbozzare, a fare che tutto può andare bene, a fare che siamo pronti. In realtà le cose non stanno proprio così e il difficile equilibrio ritrovato dopo la nascita della primogenita pian pianino, anzi molto velocemente, si incrinerà sotto i colpi di maglio del pianto dell'infante e via via discorrendo l'assenza di una babysitter, quando la presenza c'è anche peggio dell'assenza, i genitori che hanno ormai fatto tutto quello che dovevano e se ne sono andati, come dire, a fare a vivere la loro terza età in maniera molto molto sportiva, quasi disinteressandosi, sicuramente stando molto lontani dai due protagonisti. È anche un po' il racconto di una generazione che è dovuta venir su un po' da sola in questo senso, e siccome so che il mio amico Boris Sollazzo si riconosce tanto nella generazione quanto nel colpo di maglio del pianto dell'infante, chiedo a te di raccontarci questo ultimo capitolo, purtroppo, della breve vita e opera di Mattia Torre, portato a termine da Giuseppe Bonito. Intanto confido in quello che ha detto Valerio Mastandrea, che Mattia Torre ha lasciato tante cose scritte ancora non andate in scena o non andate su un set, e che magari è proprio con l'aiuto di Giuseppe Bonito, perché ricordiamolo, ha fatto una grande regia che non è solo un da legato testamentario, ma è da uomo che ha lavorato per anni con Mattia Torre, e spero che ce ne siano altri di film di Mattia Torre. E il film è bellissimo, davvero un capolavoro che rischia di essere dimenticato come rischia di essere dimenticato Mattia Torre. Mattia Torre era un genio, per chi si ricorda diciamo il suo momento di maggiore fama è stato il monologo recitato da Valerio Mastandrea sui figli, sul secondo figlio appunto, e poi c'è Cattelan, chiaramente tutti dicono che il film è ispirato al monologo, ovviamente come spesso accade a chi fa parte della generazione di Mattia Torre, il film era pronto da tempo ed è il monologo ad essere ispirato al film, e poi il film è arrivato molto dopo. È bellissimo perché, come dice Alessandro De Simone in un suo racconto recensione su The Cinema Show, Mattia Torre sa raccontare il proprio paese attraverso uomini e donne, e sa raccontare uomini e donne attraverso il proprio paese. Sembra apparentemente la storia piccola di una famiglia che si allarga, ed è in realtà invece la storia di una generazione che non ha pigli, che insomma ci sono dei monologhi chiari, dei cattivi tra virgolette, no? Dei nonni che spiattellano in faccia tutto il loro egoismo generazionale di fronte a questi che non hanno avuto né un riferimento generazionale, che non hanno aiuti da parte degli stessi, ma parla anche di un paese che non fa nulla, che si lamenta della crescita zero ma non fa nulla perché questa non avvenga, e quindi fa un secondo figlio, come urla Valerio Mastandrea, è un atto di coraggio, vuol dire credere in un paese che non crede in te. E allo stesso tempo è una commedia divertentissima, è una commedia in cui riderete se avete figli, perché vi riconoscerete, ma riderete anche se non li avrete, perché sentirete dentro che quella potrebbe essere la vostra reazione. Ci sono delle soluzioni di regia e di scrittura che forse se le avessero fatte altri avrebbero potuto dare fastidio, le voci fuori campo molto insistite, la divisione in capitoli, però anche lì c'è tutta l'ironia, tutta la capacità di destrutturare che abbiamo visto in Boris, che abbiamo visto in tutti i lavori anche teatrali di Mattia Torre. È un film complesso, un film stratificato, un film bellissimo a mio parere, perché da tanti anni non riusciamo a ridere così tanto riflettendo così tanto. Sono bravissimi tutti gli attori, anche perché questa era una mozione d'affetti, hanno fatto a gara per fare anche una sola posa tutti gli amici di Mattia Torre, perché quelli bravi hanno tanti amici e quelli bravi riescono anche a lanciarli quegli amici. Paradossalmente vedrete tante facce note che ce l'hanno fatta e il nome che non conoscevate era quello che ha dato loro le maggiori opportunità. È il lascito di quello che poteva essere il profeta di una generazione scomparsa, di una generazione troppo vecchia per essere considerata giovane e troppo giovane per essere considerata vecchia. Volendo fare una battuta che piacerebbe a Mattia Torre, per non scadere nel piedismo, visto che lui non lo fa mai, uno come Mattia Torre non poteva che morire giovane, perché il profeta di una generazione scomparsa non poteva che scomparire. Noi ci auguriamo che la sua lezione rimanga, che Bonito continui a lavorare e che magari ci siano altri progetti, perché davvero questo è un film che dovete andare a vedere, non solo per dare a Mattia Torre quello che non ha avuto in vita, ma proprio perché è un film che vi darà qualcosa in più. È uno dei più bei film italiani degli ultimi anni e dovete vederlo. E dovete vederlo, e lo state vedendo, perché è partito subito forte al botteghino Figli nei primissimi giorni di programmazione, mettendosi dietro, vabbè, i me contro te, che come dire sono il fenomeno dell'anno, ma non è cinema, cioè insomma è un'altra cosa, è un altro tipo di prodotto che finisce nella sala cinematografica, e dietro 1917, che è il film di cui parleremo fra poco. Prima però cominciamo a giocare insieme con la prima traccia del nostro film misterioso, e neanche tanto, di oggi. Sei libero, puoi andare a casa. Hai visto, eh? I fascisti tanto cattivi. Non ti si è fatto nulla, non ti si è torto neanche un capello. E allora, se avete già individuato questo film che è un monumento assoluto al cinema in assoluto e al cinema italiano in particolare, scrivetecene il titolo e il vostro indirizzo. La Rosa Purpurea, @radio24.it, per la prima volta in Blu-ray, fra poco la seconda traccia. Tu hai un fratello nel secondo battaglione? Sì, signore. Stanno per finire in una trappola. L'ordine è consegnare un messaggio perché fermino l'attacco di domani mattina. Se fallite, sarà un massacro. Abbiamo l'ordine di passare. Quella è la prima linea tedesca. Al riparo! Se non siamo furbi, nessuno salverà tuo fratello. Lo salvo io. I'm only coming over. E allora, avete sentito la clip tratta dal trailer di 1917, uno dei film che hanno fatto incetta di nomination agli Oscar la settimana scorsa, uno dei quattro film che si contenderanno l'Oscar per la miglior pellicola e poi tante altre categorie. 1917 è diretto da Sam Mendes, al quale dobbiamo, tra i tanti film di successo, American Beauty, qualche 007, Skyfall per esempio, Revolutionary Road, Era mio padre, eccetera, eccetera. Sam Mendes che torna con un film ambientato nella Prima Guerra Mondiale, che è però un film missione, un film impresa. Lo è perché, come avete sentito subito dall'inizio della clip, tutto sta in una missione che viene assegnata a un giovane soldato inglese, a prendere un messaggio, portarlo al di là delle linee nemiche tedesche che nel frattempo sono arretrate, passare le trincee, la terra di nessuno, l'inferno lasciato, la terra bruciata proprio, lasciata dalla guerra, superare il plotone tedesco e arrivare al prossimo plotone inglese, a consegnare questo messaggio per evitare una strage di 1600 uomini. Per fare questo il giovane dovrà prendersi un soldato, un compagno, un commilitone e portarlo con sé per questa impresa, e allora la scelta cade su un commilitone che ha un motivo forte, quello di un fratello che sta proprio in quel battaglione da raggiungere, un fratello da salvare, uno in più. La tecnica utilizzata da Sam Mendes è quella del piano sequenza, cioè tutto il film sembra però un'unica grande immagine ripresa con la telecamera, senza mai stacchi, controcampi, tagli, piani lunghi, piani corti, è tutto ripreso in continuo. Chiaramente tutto questo tecnicamente è stato reso possibile dall'agilità delle telecamere digitali, è stato reso possibile da un montaggio digitale nella quale praticamente i tagli non si vedono, ma la logica è proprio quella che animò il grande Hitchcock con Nodo alla gola, cioè quella di fare un film che sia percepito dallo spettatore come un'unica scena vista con i nostri occhi. E chiaramente tutto questo aumenta il pathos, soprattutto nella prima parte, forse un pochino, però da un certo punto in poi spezza questo tipo di tensione. Boris, io ti chiedo in un minuto di inquadrarci un pochino l'importanza di questo film, una storia che dura 15 ore ma che è racchiusa nelle parentesi di un film che ne dura due. Poi fra qualche minuto entriamo un pochino più dentro l'analisi critica di questo film, perché è un film che ha fatto, come diciamo, incetta di Oscar, ma che forse lascia qualcosa a desiderare, soprattutto nella seconda parte a livello di sceneggiatura. Pienamente d'accordo. Sam Mendes è uno dei migliori registi che abbiamo, però ha una caratteristica: sa raccontare benissimo le tragedie borghesi, quasi ibseniano in questo senso. Sa raccontare benissimo quella patina di vetro che comincia magari attraverso solo una piccola schicchera a rompersi e a far vedere che cosa c'è sotto. Quando si deve sporcare le mani, in qualche modo non riesce alla stessa maniera a restituire quel senso del tragico, quel senso del drammatico. E il piano sequenza diventa un cappio per lui, perché forse all'inizio dà un abbrivio forte al film, ma poi gli toglie pathos, non riesce a sentire lo sporco della guerra, non riesce a sentire in maniera diversa, che ne so, la sottile linea rossa o Full Metal Jacket. Sembra tutto qualcosa di troppo messo in scena, troppo pensato, e invece la guerra è anche fango, è anche sudore, è anche sangue, e qui se ne vede poco, se non ben messo, ecco. E quindi adesso ne entriamo un pochino più nel particolare di questa di questo film, che è comunque un film importante, un film che dà molto all'occhio dello spettatore. Prima la linea alla regia, fra poco torniamo insieme e parliamo ancora di 1917. Era inevitabile, l'odore delle mandorle amare gli ricordava sempre il destino degli amori contrastati. E come certi odori, a volte solo le voci possono condurci dentro le vite. Quanto vale 21 anni della mia vita, da 30 a 50 anni? Quanto vale la sofferenza di essere in carcere innocente? Vite dimenticate nei faldoni dei tribunali o nelle periferie più trascurate, vite che aspettano solo di essere raccontate. Storiacce, i racconti di Raffaella Calandra, ogni domenica alle 21 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. La rosa purpurea. Blake, scegli un uomo, porta la tua roba. Speravo che oggi fosse un giorno buono. La speranza è una cosa pericolosa. Questa guerra può finire solo in un modo. Vince chi sopravvive. I'm going to see my father. Non possiamo fermarci! Andiamo! I'm going no more tomorrow. Che ti salta in mente? Non ce la farai mai in quel modo! E ancora nel clima bellico di 1917, ne stavamo parlando con Boris Sollazzo. Boris, dicevamo, un film che poggia molto sull'aspetto tecnico, visivo, della fotografia, sicuramente meravigliosa. Fa vedere molto anche, appunto, come dicevo, della terra bruciata, della terra maledetta lasciata da quello che è stato, per gli storici, il conflitto più sanguinoso, anche proprio in termini di virulenza, fammi dire, dei conflitti mondiali. Una guerra fatta di assalti alla baionetta, fatta di membra che si squartavano. Era una guerra così, la prima guerra mondiale. E questo Sam Mendes ce lo fa vedere, ci fa vedere i corpi in decomposizione calpestati dai due militari che appunto procedono però in certi momenti quasi come in un videogioco. L'effetto che questo piano sequenza virtuale, diciamo così, porta al film è quello di una sorta di momento nel quale da un certo punto in poi soprattutto si corre e basta, in mezzo a paratie virtuali o comunque ricostruite con il computer, che sono la scia, il binario nel quale gli attori devono muoversi. Non è un'estetica che prende molto, secondo me, anche da questa tipologia, che è quella di un determinato mondo di videogame. Penso per esempio a Call of Duty, tanto per dirne uno. Sì, è esattamente così. Purtroppo si ha quella percezione là. Sam Mendes ha l'ossessione di mettere tutto al posto giusto. C'è tutto quello che potrebbe fare un grande film di guerra, e c'è anche la maestria di Sam Mendes, che al di là del piano sequenza compone dei quadri straordinari, compone dei momenti incredibili. E però quando arrivi a De Cust, che è questo luogo che deve raggiungere il nostro eroe, perché è lì vicino che c'è quel plotone inglese che va salvato, 1600 persone che devono essere salvate da un attacco suicida, e tu lì hai proprio la percezione di essere in Call of Duty, in Doom, di fronte a questa città in fiamme, che ti fa capire che quel protagonista ha versato troppo poco sangue. Anche quando l'ha versato non l'abbiamo visto, che quella terra di nessuno era troppo perfetta, anche quando era troppo fangosa ed era piena di cadaveri. Non riesci mai a sentire la pesantezza di quella guerra, perché non è una guerra eroica, è una guerra appunto che si è combattuta in poche centinaia di chilometri, facendo milioni e milioni e milioni di morti. Persino quella scena, che non diremo in che momento sta, però che avete sentito nella clip, di questo canto angelico prima della battaglia, anche quella scelta di scrittura straordinaria, ma che risulta fredda, risulta artefatta. Il bello è che è tutto vero, il bello è che effettivamente, anche se non sta raccontando una storia realmente accaduta, è una storia che sarebbe potuta accadere. E forse è quello il difetto di 1917. Perfetto per vincere gli Oscar, perché, come abbiamo detto, scomponendolo può entrare in ogni categoria, e infatti lo ha fatto con 10 nomination, ma tutto insieme rischia di non passare alla storia del cinema, anzi. Di nuovo i nostri amici? Sembra di sì. L'altro è nemico. Chi vince? Noi, credo. 2-1. L'hanno preso. Le scene di 1917, il saluto a Boris Sollazzo, ci sentiamo la prossima settimana, Boris. Alla prossima settimana e buon cinema. E a proposito di 1917 di Sam Mendes, la nostra Sonia Serafini a Londra ha intervistato il regista, appunto, Sam Mendes. Sentiamolo. Hai dichiarato che la storia di 1917 è stata ispirata dai racconti di tuo nonno. Quello che vorrei sapere è come li hai trasformati in questo epocale ed incredibile film. Well, he told us the stories when I was 10-11, so it was 40 odd years ago. Mio nonno mi ha raccontato questa storia quando ero un bambino e avevo 10-11 anni, quasi 40 anni fa. E ci lavoro da quel momento. No, in realtà è negli ultimi 2 o 3 anni che ho pensato di poter scrivere davvero qualcosa. He told me one of the stories he told me was a Una delle storie che mi aveva raccontato era quella di 2 ragazzi che dovevano portare un messaggio. E quello è stato l'inizio. Ho pensato che avrei potuto creare qualcosa di più epico se avessi raccontato un solo viaggio, ma non ero sicuro su come farlo. Come raccontare una storia su un viaggio di questo tipo all'interno di una guerra? Non volevo fosse un film statico. Abbiamo fatto delle ricerche e pensato a come farlo diventare un film. E così ho scoperto questo momento, quando i tedeschi si ritirarono dietro le linee di Hindenburg. Da lì è diventato possibile costruire questo viaggio di 2 ragazzi attraverso un paesaggio diverso, atmosfere diverse, cercando di farlo in modo appropriato. La scelta tecnica di girare il film come se fosse un lungo piano sequenza è anche per dare allo spettatore la sensazione di vivere quello che sta passando il sergente? Ovviamente ogni decisione è presa in favore del pubblico, ma non è sempre dal punto di vista del soldato. Ogni tanto lo è. Altre volte invece vediamo semplicemente e oggettivamente nel panorama circostante. Altre volte vuoi che il pubblico capisca la tua distanza dal film, le difficoltà fisiche e l'insieme di queste cose, della camera, dei paesaggi, della materia di cui è fatto un film, sono il linguaggio di questo film in particolare. Non volevamo che la camera fosse protagonista. In realtà, se ci si fa caso, la camera non fa nulla di particolare, nulla di straordinario. Non è che segua un proiettile, per esempio. Ma di sicuro, in un lungo piano sequenza, è come se sperimentassi la vita nel linguaggio cinematografico. È diventato normale non fare film come questo per decisioni editoriali. Ad esempio, molti anni fa era un discorso pratico non riuscire più a girare in un lungo piano sequenza, perché la camera era troppo pesante e ogni 4-5 minuti dovevi tagliare la scena. Ma anche oggi, con le camere digitali ultraleggere, non c'è stata una sperimentazione nell'altra direzione. Nulla è cambiato. La mia decisione di fare questo film come un unico piano sequenza non credo debba essere considerata come inusuale. Non dico che ogni film vada fatto così, ma magari con più piani sequenza sì, perché è grammaticalmente più adatto, più giusto. Per esempio, con la pellicola si doveva tagliare anche non volendo, perché comunque si doveva cambiare il nastro. Così è come abbiamo voluto raccontare questo film, aiutare a ridurre le distanze tra il pubblico e i personaggi e togliere un altro filtro avvicinandoci ancora di più. Le persone restano incredule, ma è il montaggio il vero gioco. E per questo film era ancora più appropriato girare in questo modo, proprio perché si tratta di un film di guerra. E allora, 1917, il film che sicuramente contrassegna in termini anche di grande pubblico e di presenza questo fine settimana al cinema, noi giochiamo di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Risalta fuori il delfino Inu, mette la testa sulla barca, mi guarda e mi dice: mamma! E vabbè, qui avete capito tante cose, soprattutto dalla lingua, dallo slang dialettale, anche forse, se l'avete ascoltate bene, dalle note che c'erano sotto. Comunque, la rosa purpurea @radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere il titolo del film e il vostro indirizzo privato. Fra poco sveliamo il nostro film misterioso, ci sono in palio 2 Blu-ray di questa grandissima opera. È una parte di me stesso che brucia, Renato. La mia giovinezza che se ne va in fumo. Coraggio, Ben, coraggio, su. Sì, sì. Oggi ho voltato pagina, tutto quanto c'era in me di grazia, di fragilità, di delicatezza, si è trasformato in cenere. E avete sentito una clip di Il Vizietto, La Cage aux Folles di Edouard Molinaro del 1978, straordinario film con Ugo Tognazzi e Michel Serrault. Perché? Perché al Teatro Nuovo di Milano è in scena lo spettacolo Il Vizietto con la regia di Claudio Insegno, che è in collegamento con noi. Ciao Claudio! Eccoci qua, ciao. È stato molto avanti nei tempi quel film. Ma guarda, io mi ricordo che ero piccolo e quando andai a vederlo al cinema i miei genitori mi guardavano e dicevano: ma perché ridi così tanto a queste cose che sono molto particolari? Ma forse stavo già avanti pure io, perché mi piacevano da impazzire. Cioè io trovavo che l'amore che c'era in questi due uomini, nella famiglia, cioè, avevo letto proprio già tutto quanto, cioè, mi piaceva proprio vedere una famiglia del genere, capivo che c'era qualcosa che non andava, però comunque mi piace, era avanti, era molto avanti, molto di più di quello che facciamo anche adesso, sinceramente. Certo. Claudio, quanto è rimasto del film dentro il tuo spettacolo? Ma guardi, posso dire una cosa? Io oggi per ripassarlo sul treno, ero mentre venivo qui a Milano, per ripassarlo ho visto il film e non ho letto il copione, quindi è rimasto tanto del film. C'è tanto. Indegnamente io faccio un Tognazzi, indegnamente, perché naturalmente non mi permetto di arrivare a quella bravura, però devo dire che c'è rimasto il sapore di quegli anni e il sapore di quell'amore che c'era appunto nel dire quelle battute in quella maniera, cioè vedere un Michel Serrault così geniale, così grandioso, così umano, doppiato così bene da Lionello, che veramente ti viene voglia di farlo uguale. Senza deludere nessuno, si spera. Insomma. Certo. Appunto, Ugo Tognazzi, Michel Serrault, chi saranno i loro volti sul palcoscenico? Insomma, come si sta in quei panni piuttosto importanti? Io nei panni di Tognazzi sto male e bene. Male perché so che naturalmente non potrò mai arrivare a quel livello, ma bene perché mi piace proprio tutto quello che dice. Cioè, ci sono dei momenti d'amore tra loro due, di battute belle, oltre a quelle scherzose che ci sono sempre, che mi fanno bene al cuore. E Eraldo Moretto, che ho detto anche la Cesira, che a Milano è molto conosciuto nell'ambiente dei locali, che fa si veste un travestì, fa degli spettacoli bellissimi, quindi chi meglio di lui poteva fare al Ben Zaza, quindi è perfetto e mi trovo benissimo con lui, perché ci scherziamo già nella vita, figurati poi sul palcoscenico cosa accadrà. E poi ci sono tanti altri attori, ci sono 10 altri attori meravigliosi che interpretano naturalmente tutti gli altri ruoli, e l'ho anche un po' arricchito appunto di musiche, non è un musical, ma l'ho fatto diventare un po' più musicale, questo sicuramente. E allora ricordiamo gli appuntamenti da questa sera 20:45 fino a domenica 2 febbraio alle 15:30, Il Vizietto al Teatro Nuovo di Milano con la regia e sul palcoscenico la presenza di Claudio Insegno. Grazie Claudio. Grazie a te, grazie a voi, grazie. E allora Claudio Insegno, Il Vizietto a teatro, rimarremo a teatro anche dopo la viabilità con il San Carlo di Napoli, la Tosca e la regia di Edoardo De Angelis, che sarà con noi fra poco, lì nella viabilità. La Rosa Purpurea. Una delle aree d'opera più belle, importanti, famose della storia del teatro musicale, Vissi d'arte da Tosca di Giacomo Puccini, che è davvero grande protagonista. Quest'anno ha aperto la Scala il 7 dicembre e adesso dal 22 di gennaio e fino al 29 è in scena al Teatro di San Carlo a Napoli, uno dei più bei teatri dell'opera del mondo, con la regia, e qui c'entra La Rosa Purpurea, c'entra il cinema, di Edoardo De Angelis, regista, grande talento del nostro cinema, che ha portato le sue tinte nere, il suo spirito cinematografico proprio dentro il teatro, con questa regia che è stata ribattezzata dallo stesso autore come una sorta di regia del Volturno di questa Tosca. Allora salutiamo al telefono con noi Edoardo De Angelis. Ciao Edoardo. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ben trovati. Allora, ben trovato a te, perché davvero noi molto spesso La Rosa Purpurea, come dire, ha queste digressioni in altri campi, perché il nostro motto è tutto il cinema che c'è, e ce n'è tanto molto spesso in altre arti. Però spesso, come dire, il rapporto è abbastanza labile o flebile. Qui invece è fortissimo, nel senso che veramente, guardando le immagini di questa Tosca, sembra di vedere un tuo film. Sì, ma non perché avesse un intento, come dire, di autorappresentazione di un mio segno, ma perché Tosca mi ha emozionato in una maniera molto personale, e quindi ho proposto al pubblico, in questi giorni propongo al pubblico, una lettura personale di un classico imperituro. Peraltro con le scene di Mimmo Paladino, di un grandissimo artista. Sì, è un artista col quale sono cresciuto. Negli anni 90 a Napoli, Paladino era parte dell'immaginario della città, la sua montagna di sale resta per me indimenticabile, e quindi l'incontro con lui è stato un incontro onorevole, e pulciando nella sua produzione poi degli ultimi anni ho scoperto un amore comune per gli elementi sacri che si innestano nella quotidianità in maniera spesso inaspettata. Ci sono altre presenze cinematografiche, come quelle dei costumi di Massimo Cantini e Parrini, per esempio, che ha collaborato con Garrone per Pinocchio, però mi interessa molto questa lettura che tu hai dato, questo fatto. Il Volturno è per te un po' lo sfondo shakespeariano della tua opera, no? Come hai fatto a strappare Tosca dalle ambientazioni classiche, a portarla dentro questa ambientazione? Cosa ci hai trovato? Dove l'hai collocata? Dove hai visto i binari possibili per far combaciare questi due mondi? Tosca si apre a Sant'Andrea della Valle in un momento di battaglia, in un momento di grande conflitto per la storia, con la S maiuscola, che fa da sfondo a questa storia di donne e di uomini. Quindi ho semplicemente immaginato una chiesa distrutta e in fase di ricostruzione. Questa compresenza della distruzione e della ricostruzione per me si esprime da sempre massimamente in questa terra, e quindi sono tornato lì per trovare ispirazione, per capire cosa diceva a me e alle donne e agli uomini di oggi quest'opera lirica. Ecco Edoardo, hai anche dato una lettura diversa, non tanto del personaggio di Tosca, ma della sua morte. Non so se fosse diversa, perché sia studiando Sardù che Puccini, mi sembra che Tosca compia dei gesti nel pieno delle sue facoltà. Puccini rispetto a Sardù lavora più folle, perché per quanto può essere lucido, il gesto di uccidere e di togliersi la vita comunque è un gesto che rompe le regole, e quindi è venato di follia. E mi è sembrata una lettura che non lasciasse molto spazio a diverse interpretazioni, e questa lettura mi porta a vedere una donna che, preservando la sua dignità, è una donna che pur morendo non perde la sua battaglia, anzi vince, perché lei diventa nel nostro ricordo un esempio. Per chiudere, Edoardo, so che stai lavorando appunto a una nuova sceneggiatura con Sandro Veronesi, e mi incuriosisce la storia che avete scelto, quella di un sommergibilista della Seconda Guerra Mondiale. Cosa ci racconterai? È un momento in cui mi sto chiedendo che cosa significhi essere italiani. Allora ho deciso di raccontare una storia emblematica, perché Salvatore Todaro, nel pieno dell'abominio della guerra, decise di portare in salvo i naufraghi della nave che aveva da poco affondato. Li portò in salvo su un'isola delle Azzorre, in territorio neutrale, e il capitano nemico gli chiese: come mai avesse compiuto quel gesto. Gli disse: noi non l'avremmo mai fatto, noi vi avremmo lasciati morire. E lui rispose semplicemente: noi siamo italiani. Una risposta, quindi, come dire, che mi sembra di capire va in senso abbastanza diverso da quella che è stata data recentemente dal nostro paese in certi momenti. Edoardo, grazie per essere stato con noi. Ricordiamo Tosca al San Carlo di Napoli fino al 29 di gennaio. Grazie ancora. Grazie a voi, a presto. E torniamo al cinema da vedere in casa. Tornando indietro di 7 giorni, avevamo giocato con questo film. Non c'erano più puttane laggiù? guarda. Ma questa io la conosco. Ebbene anche. Questa troia è da noi ora. E allora si trattava di Rambo Last Blood, il film che forse ha chiuso, diciamo così, la saga di Rambo con Sylvester Stallone. I più veloci a indovinare sono stati Daniela Bertazzoni di Padova ed Enzo Manini di Villa di Serio, provincia di Bergamo. Saranno i nostri due ascoltatori che riceveranno il Blu-ray di Rambo Last Blood, che ci facciamo raccontare in tutto il suo splendore da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, a quasi 40 anni dal primo capitolo della lunga saga, Sylvester Stallone è tornato a vestire i panni di una delle più grandi leggende del cinema action di tutti i tempi. E in questo Sentieri Selvaggi dell'epoca trampiana, una serie B truzza e senza regista, e forse non è nemmeno un difetto, il Rambo di Stallone non è un eroe, non salva chi vuole salvare, non è più un'icona e non crede forse neanche più alle lacrime. È un'illusione ingannevole, ambigua nella sua giustezza, incapace di scendere a patti con un paese il cui progresso mostruoso l'ha superato a destra. Un film crepuscolare in Blu-ray dall'ottimo riversamento, specialmente nelle scene scure, con chicche extra come 50 minuti di vita dal set. Giulio, per quanto concerne le segnalazioni dai palinsesti televisivi della prossima settimana, si arriva al 27 di gennaio, il giorno della memoria, e come sempre la programmazione dei film in televisione, e non solo, ne risente positivamente, questa volta facendoci vedere un capolavoro assoluto come Schindler's List di Steven Spielberg, 7 Oscar, fra cui quello al miglior film, che va in onda su Iris alle 21, proprio del 27 di gennaio. Sì, è la storia vera di Oskar Schindler, imprenditore tedesco in buoni rapporti con le SS, che nella Polonia occupata dai nazisti diede lavoro nella sua fabbrica a migliaia di ebrei, prima per interesse economico, poi per salvare più vite possibili. C'è una fabbrrica per cui ha tenuto la contabilità in via Lipova. Che produceva? Pentole e tegami? Per legge devo dirle, signore, che sono ebreo. Bene, io sono tedesco. Ed eccoci qua. Subito dopo il trionfo commerciale Jurassic Park, nel 93 Spielberg realizza il suo film più rischioso e controverso, una rappresentazione della Shoah che sceglie il punto di vista di un tedesco e racconta la progressiva presa di coscienza di un corresponsabile. Spielberg è attento alla ricostruzione storica, alla preservazione della memoria, ma ciò che gli interessa è soprattutto la possibilità di trasformare la tragedia in un racconto di salvezza, e per farlo usa gli strumenti tipici del cinema hollywoodiano: fotografia in bianco e nero stilizzata, regia virtuosista inventiva e un cast perfetto. Schindler's List, quindi il 27 gennaio alle 21. Voglio aggiungere anche un bellissimo DVD che è uscito da Eagle proprio in questi giorni, si intitola Anne Frank, vite parallele, ed è una storia molto interessante che coinvolge una grandissima attrice come Helen Mirren, che ripercorre attraverso le pagine del diario la vita di Anna Frank e la storia di 5 donne che da bambine e adolescenti sono state deportate nei campi di concentramento ma sono sopravvissute alla Shoah. Giulio, grazie e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. E siamo giunti alla fine allora della nostra trasmissione. Come sempre l'epilogo è dedicato allo svelamento del film misterioso di oggi. Abbiamo giocato anche in onore del centenario di Federico Fellini, di cui abbiamo parlato 7 giorni fa, con Amarcord, uno dei suoi più grandi capolavori. 2 Blu-ray in palio per i nostri 2 ascoltatori più veloci. La settimana prossima li sveleremo. Grazie per averci seguito. Un saluto da Franco D'Assisti.